un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Cosa sei per me?